English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Questa sera la dedichiamo a un'attrice molto bella, molto elegante, anche molto famosa. Si chiama Cate Blanchett, sicuramente la ricordate in moltissimi film. È famosa per la sua bellezza aristocratica e anche per il suo grande talento. A lei è dedicato un servizio all'interno del nostro English 24 in edicola, quindi ascolterei subito un estratto da questo servizio che ci presenta una delle sue ultime attività molto singolari. Sentiamo. Cate Blanchett is known for the pale beauty of her face and her vivid film performances. Her latest work marks a significant change of pace. As the curtain rises at the Sydney Theatre, she sits center stage, a still figure in a white blouse and trousers, blonde hair, high cheekbones. A storm of golden petals drift down from the ceiling, and she wears a crown. It has become fairly commonplace for film actors to star in London's West End and on Broadway, but this transposition is different. Miss Blanchett is playing the king in Shakespeare's Richard II, in the first part of a rigorously condensed version of the 8 history plays. Eccola qua, Cate Blanchett, come di solito viene chiamata negli Stati Uniti, subito viene descritta per questa sua bellezza molto particolare, anche un po' atipica in tempi di attrici di Hollywood un po' tutte uguali. Sì, tra l'altro Cate Blanchett appunto è una delle muse di Giorgio Armani, sono tanti anni ormai che la veste in tutte le occasioni più importanti, anche in alcuni film, però appunto lei, benché bravissima, resta known for, quindi to be known for esattamente in italiano, essere conosciuti per, perché cosa? Per la sua pale beauty. Pale vuol dire pallido, non vuol dire certo bellezza così di poco significato, ma semplicemente bellezza algida, noi diremmo così, perché lei appunto è bionda, con questa carnagione molto chiara, e quindi dà questa impressione di algidità. Poi in realtà, per esempio, una voce, come sentirete, molto forte, cioè niente di algido. Bella, ma anche brava, si premura subito di dire questo servizio. Sì, quindi questa viene ricordata naturalmente per le sue vivid film performances. Sappiamo che performance è appunto la performance, come diciamo anche in italiano, quindi quello che uno fa in un film. E poi però dice anche her latest work, naturalmente lavoro, ma anche il suo ultimo impegno di lavoro, è stato marks a change of pace, quindi segna un cambio di ritmo. Pace, naturalmente, che poi diventa un pacemaker, cioè un qualcosa che dà il ritmo, e lo usiamo anche noi questo termine, è naturalmente la macchinetta che dà il ritmo al cuore quando il cuore non ce la fa da solo. Un cambiamento di ritmo e di ruolo decisamente netto. Cosa sta combinando Cate? E quindi la vediamo, appunto, ci immaginiamo la scena perché ci viene descritta quando il curtain rises at the Sydney Theatre. Curtain è il sipario, quindi quando il sipario si alza su questo teatro appare lei, perché appunto, come molti attori del cinema, si cimenta poi con il teatro. Come se la immagina? Come possiamo immaginarcela? Quindi she sits center stage, quindi è seduta al centro del palco, stage è palco, palcoscenico, still figure, quindi una figura ferma, naturalmente still vuol dire silenzioso, fermo, ma per esempio anche acqua senza gas, still water è appunto l'acqua ferma, l'acqua senza bollicine. E poi ha queste high cheekbones. Le cheekbones sono quelle che noi in italiano chiamiamo zigomi, letteralmente le ossa delle guance, che naturalmente è un modo un po' diverso di dirlo, però forse rende meglio che la parola zigomi. E siccome stiamo parlando di una pièce teatrale, ce la immaginiamo così, sarà perlomeno una regina, o no? Ecco, she wears a crown, quindi indossa una corona, però she plays the king, quindi non è la regina ma il re. Non è la prima volta che Cate Blanchett lo ha fatto, anche nel film su Bob Dylan si traveste da uomo, una cosa che probabilmente, oltre che a riuscirle bene, la diverte, e comunque è un modo di mettersi alla prova, come fanno to be fairly commonplace. Commonplace è luogo comune, ma in inglese si usa anche sia come luogo comune che cosa è entrata ormai nell'uso, quindi molti attori fanno queste cose, cioè di recitare sul palcoscenico. Allora ascoltiamo un po' la voce di questa Cate Blanchett. Abbiamo anticipato una voce molto particolare, ascoltiamo un breve estratto di un'intervista nella quale lei parla dell'ultimo film di cui è protagonista, Il curioso caso di Benjamin Button. A person who was 18 would view this film in an entirely different way to someone who had just got divorced, or from someone who had just given birth to a child, or someone who was going through the death of a parent. different. And I think that that's what I'm so proud of, is the film. It's sometimes you feel like a film is really powerful, but it's a moment in time. It's a fashionable moment. Whereas this is a film that is built to last. And I think that you could view again in 10 years' time and, for want of a better word, take a different message away from it, depending on what you're going through at the time. I think it's deeply emotionally connected to that great tidal stream that is, you know, humanity. And I think that's... sounds really wanky, but it's true. Allora, questo film, Il curioso caso di Benjamin Button, aveva come protagonista maschile Brad Pitt, e per chi non se lo ricordasse, è proprio un curioso caso, perché Benjamin Button, invece di invecchiare, ringiovanisce, e quindi si vedono diversi stadi della vita di quest'uomo e anche di questa donna, e lei dice che questo aspetto del film fa sì che, insomma, ognuno lo prenda un po' a modo suo, lo viva a modo suo. Sì, dice, dipende molto dall'età che avete. Per esempio, A Person Who Was 18, quindi una persona che, sappiamo che in inglese appunto si dice non ha 18 anni ma è 18enne, quindi una persona che ha 18 anni lo vede in un entirely different way, qui naturalmente different è l'aggettivo, entirely è l'avverbio, quindi in un modo completamente diverso, tale quale a come diciamo noi in italiano, e poi fa tutti i casi, cioè ci sono someone who just got divorced, naturalmente è essere appena usciti da un divorzio, oppure just given birth to a child, oppure appena dato alla luce un bambino, oppure, ancora cosa triste, going through the death of a parent, qualcuno che ha appena attraversato l'esperienza della morte di uno dei tuoi genitori. Parent, che naturalmente è un false friend, perché vuol dire genitore, dal latino parentes, mentre i parenti, come diciamo in italiano, sono i relatives. Questo fatto che ognuno possa vivere il film in maniera diversa la rende particolarmente, direi, orgogliosa. Sì, to be proud of something, come in italiano, essere orgogliosi di qualche cosa, e comunque pensa che questo film is powerful, to be powerful, naturalmente power più full vuol dire essere pieno di potenza, quindi un film molto potente, e poi che marks a moment in time, questa è un'espressione che noi non usiamo in questo modo, ma vuol dire proprio segnare un momento nel tempo, cioè essere una pietra miliare, potremmo dire, e non è soltanto un fashionable moment, non è così il film di moda del momento, ma è qualcosa di più. Anzi, che proprio secondo lei durerà nel tempo. It's built to last, che naturalmente si può dire anche di una macchina piuttosto che di un mobile, insomma, è una cosa costruita per durare nel tempo. Lo dice ancora, no? Depending on what you are going through at the time, quindi dipende da quello che stai attraversando in quel momento. Un film che colpisce le emozioni, e lei utilizza anche un aggettivo così particolare che forse non tutti utilizziamo spesso. Sì, perché si dà un po' così al metafisico e dice che appunto è deeply emotionally, cioè colpisce chi lo vede in un modo emozionale a livello molto profondo, perché ha a che fare con lo spirito della humanity, con il grande spirito del mondo, e poi da sola si rende conto di aver detto una cosa, insomma, un po' forte per quello che è sostanzialmente poi un film anche abbastanza commerciale a mio parere, e dice, beh, ho capito, sì, it sounds wonky, che vuol dire è una proprio British slang, questo un americano non lo direbbe mai, che vuol dire so che sembra una roba un po' così, una sciocchezza, ecco, diremmo, una cazzatina, però invece no, ci credo veramente, it's true. Allora, lei ha spiegato la caratteristica di questo film, che può colpire ognuno diversamente, secondo lei, in qualsiasi fase della vita, e parlava di qualcuno che aveva appena fatto un figlio, lei è madre, e racconta che questo per lei così ha determinato un atteggiamento particolare nei confronti del film. Sentiamo ancora Kate Blanchett. I mean, I've played a mother before being a mother, and as an actor you don't need to, you know, you don't have to be a murderer to play a murderer. But this is a film, I think, that I don't think I could have had the depth of understanding if I hadn't been a parent or lost a parent, because it somehow brought all of that stuff up. And a friend of mine who was seeing the film last night said you can really tell that it's been shot in a house with history, that it's not in a studio. And I think it really infused the performances, knowing that, you know, generations of people had lived and died and given birth in that house, and it's the houses, the, you know, they really do hold that stuff in New Orleans. You feel that people have got lost and been found there. And there's a, for me, one of the most moving moments in the film is when Benjamin, after he and Daisy part, he goes on this kind of journey, and you just see him sitting as a parking attendant reading a book, and he's lost. in un certo senso Cate Blanchett dà anche un'interpretazione della vita e dell'attività dell'attore, di quello che succede quando si è vissuto e quando non si è vissuto un'esperienza analoga a quella di un personaggio. E naturalmente lei ammette: I have played a mother. To play a mother, naturalmente, a interpretare il ruolo di una mamma before being a mother, anche se io non lo ero ancora diventata. Però questo è il bello, il brutto dell'essere attore, cioè you don't have to be a murderer to play a murderer, non devi essere un assassino per interpretare la parte di un assassino. Però è chiaro che se tu hai fatto l'esperienza che poi ti trovi a interpretare, the depth of understanding, la profondità del tuo comprendere il personaggio è diversa. Non è solo una questione delle caratteristiche del ruolo, perché lei è andata al cinema con un amico, probabilmente, o questo amico è andato al cinema e le ha raccontato una caratteristica che lo ha colpito di questo film, e quella del luogo in cui è stato girato. Sì, noi spesso non ce ne accorgiamo, molti film sono girati negli studios appunto, ma questo no, cioè, o comunque le scene della casa sono girate in una house with history, con una casa che ha una sua storia e non è semplicemente costruita ad hoc per il film, non è un set, o meglio è un set, ma è un set che viene dalla realtà, e questo infuses the performance, quindi immette nella performance, nell'interpretazione, tutto un altro spessore. Sì, perché secondo lei un po' lo spirito della casa entra nella storia, entra nel film e nella recitazione appunto degli attori, quasi che chi c'è stato, chi ha vissuto davvero in quella casa abbia un po' trasmesso il suo spirito. Sì, una versione un po' animistica di questa casa a cui si è molto affezionata, perché dice appunto si sente che people have lived, died and given birth in that house. Secondo lei, e secondo anche il suo amico evidentemente, si sente che questo è un set vissuto, perché ci sono persone che vi hanno vissuto, sono morte lì e hanno dato alla luce dei bambini. Una domanda che spessissimo i giornalisti di cinema fanno agli attori, una delle domande più banali è: qual è il momento più interessante, più emozionante, quello che ti ha colpito di più nel film? Lei ha prevenuto la domanda, ha già risposto e ha parlato del momento più emozionante di questo film. Naturalmente è moving. Move vuol dire muoversi, ma quando è usato in questo senso, perché moving viene dal verbo to move, vuol dire emozionante. Infatti you really move me vuol dire mi emozioni davvero, e in questo caso quindi il most moving moment, il momento più emozionante, è naturalmente un momento triste, è quando Benjamin e Daisy, che è il personaggio che interpreta Cate Blanchett, part. To part vuol dire separarsi, naturalmente, e lui inizia questo kind of journey. Quante volte abbiamo sentito questo kind of, che vuol dire questa specie di, e poi questa specie di viaggio, perché appunto lascia Daisy per tutti questi problemi di invecchiamento, ringiovanimento, quindi le loro strade si separano. Tra l'altro lei utilizza un verbo che aveva utilizzato anche per le persone che avevano vissuto davvero in quella casa: he's lost. Chissà perché questo le sembra così incredibilmente emozionante, più che triste al mio modo di vedere, però c'è questo che appunto le fa molta impressione, cioè l'idea che le persone si perdano e si ritrovino, come nella casa, people have got lost, si sono perse, and have been found, si sono ritrovate. E così Benjamin in quel momento, quando appunto la Daisy se n'è andata e lui è perduto, si sente perduto. Salutiamo Cate Blanchett, che comunque ritroverete nel nostro English 24 in edicola, perché la nostra trasmissione anche per questo sabato si conclude qui. Io ringrazio Giacomo Spunta in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli l'augurio di una buona serata.